Bene, buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Abbiamo una nuova presentazione di un libro stasera. Un benvenuto a tutti i nostri relatori e un benvenuto anche a voi e da tutto lo staff della biblioteca. Stasera siamo in compagnia di Andrea Membretti, curatore del volume Migrazioni verticali, la montagna ci salverà, insieme accompagnato da Camilla Wellstein, Judith Hafner, Andrea Zatta e Massimiliano Boschi. Un libro che affronta tematiche molto importanti, la montagna in varie declinazioni, parleremo di clima, di sostenibilità. Prima di addentrarci all'interno di questa storia, di questo racconto che ricordo, alla quale seguirà anche la proiezione del cortometraggio The Ice Builders, colgo l'occasione per ricordarvi brevemente tutte le iniziative future della biblioteca. Ci troviamo domani in biblioteca con il nostro gruppo di lettura di narrativa e saggistica locale. Una volta al mese la biblioteca propone questo incontro in cui, in maniera anche piuttosto informale, chi ha piacere può incontrarsi per discutere un volume che solitamente è un saggio o un romanzo a scelta. Quindi domani alle 5 vi aspettiamo. Altrimenti ci troviamo il prossimo martedì con la presentazione di un nuovo libro edito da Alfabeta, ossia Colonne di Storia, giornali e giornalisti in Trentino, Alto Adige e Sud Tirol, dell'autore Maurizio Ferrandi e che dialogherà insieme ad Alberto Faustini. Concluderemo poi questa stagione e l'anno 2024 con una conferenza dal titolo Attraverso i confini e tra le discipline, le vicende intellettuali e biografiche di Grete De Francesco Weissenstein. Si tratta di un'iniziativa in collaborazione con l'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma e così come anche con la Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. E anche quella sarà un'occasione molto interessante per approfondire la figura di Grete De Francesco. Che altro dire? Vi auguro un buon ascolto e un buon inizio per i nostri presentatori. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, anche sufficientemente numerosi, visto le numerose presentazioni di libri di questa sera in altri luoghi. Siamo qui, io sono Massimiliano Boschi, sono un giornalista e sono qui per moderare e presentare in particolare il libro Migrazioni verticali, che è edito da Donzelli, sottotitolo La montagna ci salverà, a cui sarà una delle prime domande a cui dovrai provare a rispondere. Abbiamo qui appunto l'autore Andrea Membretti, docente di sociologia del territorio dell'Università di Pavia e sei tra i fondatori di Riabitare l'Italia, che anche questo magari due parole ce le dirai. Vado in ordine partendo dalla estrema mia destra, abbiamo Camilla Wellstein, docente della Libera Università di Bolzano, esperta di ecosistemi alpini, Judith Hafner, che è già stata ambasciatrice del Patto dell'Unione Europea per il Clima, giusto? Dite se c'è qualcosa. E a fianco a me c'è Andrea Zatta, che è l'ideatore di un documentario che vedremo al termine dell'incontro. Il documentario, come è già stato detto, si chiama The Ice Builders e racconterà ed è dedicato agli stessi temi che ha affrontato il libro, serve per presentarlo serve una piccola precisazione. Il libro non si occupa direttamente dell'Alto Adige Sud Tirol, però tratta temi che sono fondamentali e interessantissimi per questo territorio. Anzi, a mio avviso, è un testo che, pur non credo citando nemmeno mai l'Alto Adige, forse, è veramente uno specchio che ci permette di rifletterci e di riflettere su quello che sta accadendo da altre parti. Sulle montagne, il libro si concentra sulle Alpi, in particolare sulle zone di Lombardia e Piemonte, ma i temi sono a mio avviso fondamentali anche per capire la ricchezza di questo territorio dell'Alto Adige e di cosa rischia forse anche questo territorio che ha, e ne parleremo dopo, possibilità e capacità normative ed economiche molto diverse degli altri territori montani della penisola e quindi cercheremo di raccontare tutto quello che può mettere in moto queste appunto migrazioni verticali. Lo studio credo sia stato uno studio durato un anno e mezzo, due, giusto? Sì. Su cui ha avuto una forte influenza la pandemia. Ovviamente durante la pandemia molti hanno pensato di allontanarsi dalla città, poi ce lo presenterà meglio l'autore, per cercare una specie di rifugio, una vita forse alternativa rispetto a quella della città in un momento molto particolare in cui non si poteva nemmeno apprezzare troppo la vita cittadina perché eravamo tutti chiusi in casa. Ma appunto, come prima cosa, chiedo ad Andrea Membretti, che è uno degli autori, insieme a Filippo Barbera e Gianni Tartari, del volume, di presentarcelo e di spiegarci come si è arrivati a questa ricerca. Bene, grazie. Intanto grazie per questo invito, per la possibilità di presentare qui questa sera, per chi appunto, attraversando mercatini, Natale e folle qua intorno, è voluto arrivare in questa sala. A me fa molto piacere appunto poi presentare a Bolzano, città e territorio, questo con cui ho avuto anche un passato di collaborazione, di ricerca, di attività, insomma, abbastanza lungo. Il libro nasce da una riflessione che sta sviluppando da alcuni anni un'associazione che abbiamo fondato nel 2020, non a caso appunto durante la pandemia, che si chiama Riabitare l'Italia e che ha come obiettivo fondamentale quello di promuovere studi, ricerche, riflessioni, volumi, incontri, progetti sul, diciamo, ritorno o sull'insediamento ex novo in territori che si sono spopolati, in territori che vanno perdendo popolazione, vanno invecchiando. Innanzitutto nel caso italiano questi territori sono territori delle cosiddette aree interne o comunque aree montane, insomma il 60% abbondante del nostro paese è composto da montagna dal punto di vista della classificazione Istat, quindi l'associazione nasce con questo obiettivo. Poi diciamo qualcosa ovviamente perché sempre in tutte le statistiche, io lavoro con la Convenzione delle Alpi per esempio, con Istat, come sappiamo a fronte di una situazione alpina per quello che riguarda l'Italia dove tutte le regioni alpine perdono popolazione e hanno quello che si chiama il saldo naturale negativo, cioè muoiono più persone rispetto a quelle che nascono, come sappiamo ancora oggi l'Alto Adige è l'unica che ha il saldo naturale positivo. Quindi anche qui secondo me è molto interessante parlare di riabitare la montagna in un territorio che è l'unico sostanzialmente nelle Alpi italiane che ha mantenuto una presa però sulla montagna. Allora l'associazione promuove studi e ricerche e tra il 22 e il 23 si decide di realizzare una ricerca che poi è stata finanziata da una fondazione lombarda, la Fondazione Cariplo, per ragionare su questo fenomeno, come diceva Massimiliano, del crescente interesse verso la montagna che è emerso soprattutto dopo la pandemia, ma in realtà è un fenomeno che avevamo già intercettato e studiato soprattutto nelle Alpi occidentali almeno negli ultimi 10 anche 15 anni. C'è un movimento qualitativamente interessante, anche se quantitativamente ancora non così forte, dalle grandi città verso la montagna. La pandemia ha dato una spinta ulteriore, tutto il fenomeno del telelavoro, no? Smart working, possibilità, insomma, per chi aveva ovviamente le risorse anche o il tipo di lavoro, perché poi sappiamo che è anche un fenomeno che ha dato luogo a delle forti ingiustizie sociali, però c'è stata tutta questa spinta. Allora noi cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto ragionare con e su spinta anche degli ambasciatori dello European Climate Pact. Io faccio parte anche di questo network, Judith ha fatto parte anche lei di questo network, ragionare su come il cambiamento del clima nelle grandi città di pianura, guardando alla pianura padana innanzitutto, sia un fattore che può spingere in maniera più consistente le persone a salire di quota. Cioè, questa era sostanzialmente l'ipotesi che noi facevamo. Fa sempre più caldo, molto banalmente, fa sempre più caldo nelle città, le previsioni climatologiche per i prossimi 15 anni, non 150 anni, ma prossimi 15 anni, ci dicono che la situazione in quel grande catino che è la pianura padana, però poi qua arriviamo in un attimo, Bolzano non è stato oggetto di studio, ma anch'io ho passato 3-4 estati in questa città a luglio, non è propriamente, insomma, il clima migliore. Quindi diciamo tutto il catino della pianura padana, ma anche le valli interne, le conche anche interne alle Alpi, che si vanno surriscaldando in questo modo, producono un combinato, diciamo, di picchi di calore, aumento dell'umidità, le cosiddette notti tropicali, che non scendono mai la temperatura sotto i 20-22 gradi neanche di notte, e poi l'inquinamento atmosferico, che è ulteriormente sollecitato dall'innalzamento delle temperature. Quindi sostanzialmente l'ipotesi in partenza è: la pianura padana in particolare sta diventando una grande camera a gas surriscaldata. Le persone che già sono sensibilizzate verso la montagna per ragioni legate alla pandemia, a nuovi stili di vita, alla nuova narrazione che c'è anche sulla montagna negli ultimi anni, perché c'è molta letteratura, filmografia che insiste sulla montagna come valore positivo, no? Anche molta rappresentazione. Allora dicevamo, vuoi vedere che effettivamente il cambiamento del clima possa rappresentare un fattore che spingerà in maniera crescente? E facciamo questa ricerca, di cui adesso vi dico due dati essenziali. No, la ricerca è stata una ricerca fatta su tutta la pianura padana, pensando al rapporto tra la pianura padana e le Alpi, innanzitutto, no? Quindi la catena alpina italiana, e a quelle che sono già le interconnessioni tra le grandi città e la montagna. La prima delle interconnessioni è quella turistica, e appunto non è un caso, credo anche no, che possiamo fare questo ragionamento in Alto Adige, che negli ultimi anni è il luogo per eccellenza, ahimè dico io, che sperimenta l'overtourism, quindi comunque una situazione di pressione che viene proprio non solo dalle pianure, perché sappiamo che viene anche il turismo ormai da tutto il mondo, quindi su scala globale. Però ecco, ragionare quindi su queste dinamiche di un territorio che è già interconnesso, le grandi città con le montagne. Il turismo rappresenta uno dei fattori di connessione, però poi c'è tanta interconnessione viaria, infrastrutturale, di comunicazione, digitale, cioè la montagna non è mai stata così interconnessa alle città come negli ultimi 15-20 anni. Anche se ancora c'è una rappresentazione, specie per la montagna, diciamo, centro-occidentale, per le Alpi più anche piemontesi, lombarde, di un distacco, come se fossero due mondi, però questa è anche una rappresentazione funzionale ad alcune dinamiche, insomma, alcune logiche. Vengo ai dati. Allora, noi decidiamo di fare questa ricerca e facciamo tre cose, così vi dico tre dati e poi mi taccio subito. Prima facciamo un'analisi del cambiamento climatico e una previsione per i prossimi 15 anni della pianura padana e dell'arco alpino circostante. Questa analisi, tra l'altro, qualcuno lo conoscerà perché viene spesso anche qua a Bolzano, è stata coordinata da Luca Mercalli, il climatologo, che ha scritto anche un capitolo del nostro libretto. E cosa vediamo? Quello che in realtà ci aspettavamo di vedere, ma non perché abbiamo cercato solo certi dati. Analizzando i dati, per esempio, forniti dalle ARPA, no? Dalle Agenzie Regionali per l'Ambiente, i dati forniti dall'ISPRA, i dati forniti dall'Istat, i dati dell'IPCC, no? Dell'International Panel for Climate Change, mettendo assieme tutta una serie di dati, vediamo che nei prossimi 15 anni sostanzialmente il combinato, come dicevo prima, di picchi di calore, inquinamento atmosferico, umidità, notti tropicali, rappresenta un elemento di estrema fragilizzazione delle grandi città e non solo delle città, anche di tutto l'hinterland che sta intorno alle grandi città, perché se guardiamo la pianura padana da satellite, come sappiamo, no, quella grande bolla di inquinamento luminoso, perché poi di fatto è anche un inquinamento luminoso, sapete che la vediamo, no, da Torino a Venezia, con le propaggini che vengono dentro anche nella valle dell'Adige. Ecco, quindi il primo dato è questo: in pianura si sta male e si starà sempre peggio dal punto di vista climatico, con un impatto molto forte non solo sulla qualità della vita, sulla percezione poi che noi possiamo avere della nostra vita nell'ambiente, ma un impatto sulla salute, per esempio anziani, persone fragili, bambini, persone esposte a malattie o a qualche forma di disturbo dal punto di vista respiratorio. Quindi un impatto sulla salute, un impatto sull'organizzazione del lavoro, perché si fa sempre più caldo, se bisogna vivere in ambienti condizionati, la scarsa utilizzazione degli spazi pubblici. Cioè tutto questo, insomma, ve la faccio veramente molto breve, ma ha un impatto per i prossimi 15 anni previsto molto negativo anche in termini di costi economici, quindi non solo di qualità della vita, perché uno pensa, beh, ma insomma fa più caldo, sto meno bene, no, c'è proprio un tema di costi e di impatto sulle economie, per cui abbiamo fatto delle proiezioni che trovate nel libro, per cui anche diciamo un po' le locomotive dei servizi o di quello che rimane dell'industria, eccetera, della pianura padana, come Milano, come Torino, avranno un impatto negativo anche dal punto di vista economico. Con questo, non che la montagna non sia toccata dal cambiamento climatico, perché come sappiamo le Alpi sono il principale hotspot climatico d'Europa, a nord del Mediterraneo, dove la temperatura sale di più di tutto il resto d'Europa. Quindi comunque nelle Alpi gli effetti del cambiamento climatico si sentiranno in maniera forte, e lo vediamo poi con le previsioni rispetto agli eventi estremi, dissesto idrogeologico, tutto quello che può essere insomma una gestione di un territorio fragile. Ma comunque diciamo che la situazione della pianura e delle grandi città è nettamente in peggioramento rispetto a quello che è la situazione montana. Secondo dato, vado velocemente, abbiamo fatto una analisi invece dei trasferimenti di residenza nel quinquennio dal 2018 al 2022 da due grandi città, ci siamo concentrati lì su Torino e su Milano, le più grandi città insomma comunque della pianura padana, dove va la gente che cancella la propria residenza anagrafica dai due capoluoghi. Considerate che in media dal 2 al 3% all'anno della popolazione di queste due grandi città si cancella anagraficamente, no? Quindi va a risiedere anagraficamente altrove. A Torino il 9%, a Milano il 7% hanno scelto di risiedere in comuni montani, classificati come montani dall'Istat. Uno può dire, beh, è il 9%, 7% del 2%. Sì, però stiamo parlando di città che fanno dal 1 milione al 1,5 milioni di abitanti. Quindi stiamo parlando comunque di decine di migliaia di persone che non hanno espresso un desiderio di trasferimento, si sono trasferite. E qui lo dico solo come nota, mentre da Torino la gran parte delle persone si sono trasferite nei comuni delle Alpi piemontesi vicine a Torino, per esempio la Valsusa, da Milano dove si sono trasferiti innanzitutto? In Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, che sono anche le località che storicamente i milanesi frequentano dal punto di vista turistico. Quindi c'è stato un trasferimento di residenza che interessa anche questa regione, questa provincia. Terzo dato, abbiamo fatto un'indagine campionaria su tutte le principali, su alcune delle principali città della pianura padana, da Torino, Milano, Venezia Mestre, Padova, Treviso, Bologna. Un'indagine campionaria fatta quindi con tutti i crismi, con la società di indagini SVG di Trieste, 2062 intervistati, per capire due cose tra le tante. Poi il questionario era molto ampio, trovate nel libro un po' tutti i riferimenti. Quanto le persone sono preoccupate oggi del cambiamento climatico nelle proprie città? Non al Polo Nord, si fondono i ghiacciai, altre situazioni drammatiche che ci sono in giro per il mondo, e ce n'è, come sappiamo, ben più drammatiche della nostra. Ma noi abbiamo domandato, ma quanto siete preoccupati di quello che succede e succederà di qui a 2, 3, 4 anni nella vostra città? Livello di preoccupazione elevatissimo, soprattutto da parte dei giovani e soprattutto da parte delle donne. Quindi c'è anche un tema di genere e c'è anche un tema generazionale, che adesso non ho tempo di entrare nei dettagli, che è emerso. E poi gli abbiamo domandato, ma quanto la montagna, secondo voi, e da lì anche il sottotitolo del volume, potrebbe rappresentare un'ancora di salvezza rispetto a questa situazione? 30% degli intervistati, un terzo circa, ha indicato la montagna come una possibile via di fuga. Allora, naturalmente, e qua chiudo, i dati che vi ho detto, di cui vi ho detto, di chi ha cambiato residenza, sono dei dati oggettivi. Le persone hanno cambiato residenza e sono andate a vivere in montagna. Peraltro, tra parentesi, vi dico anche che noi abbiamo intercettato in alcuni approfondimenti qualitativi uno spostamento di persone verso la montagna che non ha comportato un cambiamento di residenza, perché oggi molte persone usano le seconde case, fanno smart working, hanno vivere multilocale, come si dice, non cambiano la residenza. Quindi quel dato per certi aspetti è anche sottostimato, però è un dato oggettivo. Questo dato è una percezione, però il fatto che su 10 milioni circa di persone, che è la popolazione da cui noi abbiamo preso il campione statisticamente rappresentativo di 2000 persone. Ci abbiamo detto così. Questo vuol dire che 3 milioni e mezzo circa di persone hanno detto: ma la montagna, almeno alcuni mesi all'anno d'estate, o addirittura per viverci parte dell'anno, o addirittura per andare a viverci per sempre, è la via di fuga dal surriscaldamento, dal cambiamento climatico. Ecco, io direi che chiudo su questo, vi lascio su quest'ultimo dato, per cui a fronte di questi dati oggettivi, che il cambiamento climatico sta impattando in questo modo, già delle persone negli ultimi 5 anni hanno avuto dei trasferimenti di residenza e tendenzialmente 3 milioni e mezzo di persone nell'intera pianura padana stanno guardando alle Alpi, tra cui quelle che stanno intorno a qua, ecco, questo diciamo è un po' il quadro dentro il quale ci muoviamo. Grazie. Complimenti per il rispetto dei tempi, preciso, quasi al secondo. No, entro direttamente nel tema, ripartendo dall'autore, da Andrea, con due aspetti. Intanto, forse va chiarito una cosa: la scelta della montagna non è una scelta da eremita. Cioè, e questo credo dopo, se vuoi dire due parole su questo. L'altra è che mentre leggevo il libro mi veniva in mente, ovviamente, visto che il sottotitolo è La montagna si salverà, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Mi è venuto in mente, perché come forse qualcuno ha intuito nel momento in cui ho presentato Andrea Zatta, che io non sono di qua, vengo da Bologna, e ultimamente, diciamo, ai piedi dell'Appennino c'è stato qualche problemino, e quello mi ha fatto venire in mente che, cioè, nel frattempo che si pensava di andare in montagna, la montagna è venuta da noi, come Maometto, esatto. E quindi è evidente che la questione ambientale complica del tutto il ragionamento. Poi dopo appunto approfondiremo il tema. Non è solo una questione di grande caldo, ma anche di precipitazioni che abbiamo visto anche a Valencia, come è andata, che mettono, credo, aumentino l'ansia un po' di tutti, con effetti, credo, anche politici rispetto all'ansia generale che c'è rispetto al futuro. Quindi ti chiedevo fondamentalmente di iniziare il secondo giro, cioè il primo giro a dire il vero, precisando sia l'aspetto della scelta, che non è mai una scelta da eremita, da chi vuole vivere isolato, più, ecco, la complessità di una decisione di quel tipo. Sì, grazie. Questa domanda è fondamentale perché, appunto, innanzitutto rispetto anche a scelte, a movimenti che ci sono stati in un passato recente, il movimento cosiddetto neorurale o neoruralista, insomma, dove c'erano scelte non eremitiche, ma comunque magari anche di piccoli gruppi, piccole comunità che decidono di andare a vivere in contesti abbastanza lontani, diciamo, tra virgolette, dalla civiltà, no? Il tema degli ecovillaggi, il tema delle comunità autosufficienti, che c'è un po' poco, direi, nelle Alpi, negli Appennini, c'è molto di più per esempio in Nord America, in altri contesti. Qui noi abbiamo intercettato persone che vogliono comunque rimanere strettamente collegate anche alla città. Infatti il libro che abbiamo pubblicato prima di questo, ecco, mi sono dimenticato di dire Come riabitare l'Italia, abbiamo una collana di volumi con Donzelli Editore, siamo arrivati credo al decimo, insomma ne abbiamo fatti parecchi in questi 4-5 anni di attività, e un libro precedente si intitolava Metro Montagna, perché anche attirandoci parecchie critiche, perché il concetto di metro montagna, sul quale adesso non entro, ma comunque è un concetto, diciamo, spigoloso, ecco, mettiamola così, perché bisogna sempre capire intanto se c'è il trattino in mezzo, poi se è metro montagna allora vuol dire che c'è una dominanza della metropoli sulla montagna, allora non è meglio guardare alla montagna urbana, cioè guardarlo al contrario, no? Come mettiamo vicino questi due termini? Però ecco, diciamo che già da quel libro Metro Montagna noi vedevamo che le persone che abbiamo anche intervistato per questo volume vogliono mantenere un rapporto con la città. Quindi si vuole andare a vivere in aree montane interne che però siano collegate in qualche modo alle aree metropolitane. Questo è interessante anche perché c'è tutto il tema dei servizi, no? Il dibattito sui servizi che in altre zone montane, perché appunto il Trentino Alto Adige rimane nell'ambito delle Alpi italiane sicuramente quello più servito ancora a livello capillare, ma in altri territori, per esempio del Piemonte o della Lombardia, si sente molto il tema, no, dei servizi che scivolano verso valle, si ritirano i presidi sanitari eccetera, però in realtà le persone che noi abbiamo intervistato, che abbiamo raggiunto, esprimono più invece la necessità o il desiderio non tanto di avere i servizi che risalgono nelle valli, ma di vivere nelle valli o in montagna a, diciamo, una distanza abbastanza percorribile, ravvicinata per via di una strada, un'autostrada, un mezzo di trasporto che di solito è privato, quindi anche attenzione l'impatto ambientale e climatico che potrà avere questo tipo di mobilità, verso le città. Per cui stare qualche giorno a vivere in montagna, poi magari andare giù una volta alla settimana a Milano, a Torino o a Padova o a Verona a fare determinate cose, che sia un servizio sanitario piuttosto che non invece per lavoro o per il cinema, e poi tornare. Ecco, quindi non c'è assolutamente un'idea né di eremitaggio, né di piccole comunità autosufficienti, ma neanche, e qui secondo me in altre presentazioni abbiamo anche discusso quanto questi nuovi abitanti che possono arrivare, stanno già arrivando, entreranno in potenziale conflitto con gli abitanti che ci sono già. Perché per esempio il tema dei servizi è declinato, di solito io conosco abbastanza bene soprattutto le comunità alpine del nord-ovest, da quelli che sono rimasti, soprattutto persone che appartengono anche a una certa fascia d'età medio-alta, come fondamentale. Cioè i servizi devono rimanere perché è il presidio del territorio. Poi invece ti arriva chi vuole arrivare in montagna, sta già arrivando in montagna dalle città, e magari ti dice: no, non sono quelli gli, diciamo, gli asset che mi interessano, ma piuttosto una via di veloce scorrimento, per cui io una volta alla settimana i servizi me li vado a fruire a Milano o li vado a fruire a Padova o a Verona. Ecco, quindi questo è un primo tema che apre anche delle possibili contraddizioni. Per quello che riguarda velocissimamente la fragilità della montagna, come dicevo prima, il cambiamento climatico impatta sulla montagna per certi aspetti in modo anche più evidente rispetto alle città. Però qua bisogna fare anche una differenza tra l'Appennino e le Alpi. E l'Appennino, lo sapevamo, le proiezioni erano state fatte già dall'ISPRA 15 anni fa, e infatti è particolarmente esecrabile, direi io, che sia accaduto quello che è accaduto in Emilia-Romagna, perché c'erano tutti gli strumenti per, non dico evitare, ma perlomeno prevenire in parte quello che è successo, perché si sapeva che quel tipo di terreno, innanzitutto argilloso, franoso, in condizioni in cui i fiumi erano stati irreggimentati, la montagna è stata abbandonata, l'Appennino è stato abbandonato molto di più delle Alpi, quindi si sapeva che ci sarebbero stati degli effetti. Ecco, sulla Spagna non entro nel merito perché conosco meno la situazione, ma comunque penso che ci siano delle analogie. La montagna appenninica è molto più fragile, con questo non che la montagna alpina non lo sia. Adesso venivo oggi dall'altopiano di Asiago, scendevo dalla Varone, e hanno ripulito ormai tutto quello che è rimasto, 5 anni ci sono voluti, di vaia, quindi ci sono solo i ceppi degli abeti rossi che sono stati buttati giù da vaia nel 18 e nel 19, ma hanno iniziato a costruire dei muri di contenimento, hanno iniziato a cercare di fare delle opere, perché evidentemente prima che lì il bosco ricresca, per i prossimi 20-30 anni, sulle vie di comunicazione e sui paesi c'è una minaccia incombente. Quindi su questo ovviamente non abbiamo una risposta, se non che alcuni territori, per ragioni morfologiche, quindi per fortuna anche loro, o per il fatto che non sono stati abbandonati e sono stati manutenuti, e questo in particolar modo è il caso di territori come l'Alto Adige, ovviamente non è che non siano esposti ai rischi, sono esposti ai rischi come gli altri, ma hanno una capacità di resilienza diversa. Ecco, questo può essere un po' la risposta che posso darti. Sì, io farei adesso un giro continuando a ragionare sull'ambiente alpino più in generale, per poi concentrarsi sull'Alto Adige nel secondo giro. E quindi prendo per passare la parola a Camilla Wellstein una parte dell'introduzione del libro, in cui giustamente tu, gli autori ricordano che anche animali e piante si spostano rispetto al cambiamento climatico, e quindi c'è un movimento che non riguarda solo gli esseri umani ma anche gli animali. Su quello ti chiediamo anche di fare una precisazione, perché magari molti pensano agli animali che scendono, penso ai cinghiali o ai lupi che si ritrovano poi, cioè i cinghiali in Appennino, cioè Roma, Bologna, eccetera, hanno ormai una frequentazione, si sa che quando si va a gettare l'immondizia bisogna stare attenti ai cinghiali. E quindi, insomma, se ci puoi fare un quadro di quello che è il sistema, da questo punto di vista, i cambiamenti in atto nell'ecosistema alpino. Sì, prima di tutto complimenti ad Andrea per il libro, tematica interessantissima, e troverete tantissimi aspetti che sono molto importanti, che vi ho anche già esposto io. Grazie della domanda. Vorrei partire un po' dal cambiamento climatico in generale per poi vedere come reagiscono altri organismi. il clima è guidato da diversi fattori, parliamo dei cosiddetti driver, no, naturali, per farvi un esempio, è la costellazione orbitale tra la Terra e il Sole, in particolar modo l'inclinazione dell'asse terrestre, i famosi cicli di Milankovic, che determinano la glaciazione, perché noi nel passato c'erano diverse epoche glaciali, ecco, e quindi i ghiacciai si sono espansi, le specie, inclusa la nostra, animali, piante, hanno dovuto migrare già 100.000 anni fa, 400.000 anni fa, e facevano migliaia di chilometri. In questo contesto parliamo dell'epoca della glaciazione, quando è molto freddo e le specie devono fuggire. Poi tra le glaciazioni parliamo dell'interglaciale, che è più caldo, come ce l'abbiamo adesso, è più caldo. Ecco. Poi è così che ogni specie si è evoluta e ha una sua cosiddetta nicchia, nicchia ecologica ma anche nicchia climatica. E questa nicchia è praticamente l'assieme dei fattori sotto i quali noi, per esempio, riusciamo a vivere. Per esempio, nell'Himalaya non si può trovare una permanenza umana sopra i tipo 4-5.000 metri, perché la nostra specie non è adattata. Ecco. E così anche le piante e gli animali stanno nella loro nicchia. Adesso una parola chiave che abbiamo già sentito, il rifugio. Quindi il rifugio è una cosa, un concetto e una realtà importantissima. Perché per poter vivere ognuno deve vivere nella sua nicchia. Adesso se l'ambiente cambia, le specie si muovono, cioè migrano per ritrovare la loro nicchia. E questa la trovano in un cosiddetto rifugio. Per esempio, durante la glaciazione, i rifugi non erano sulle Alpi, dove c'era il ghiaccio, ma a sud, sud-est, sud-ovest, sui Balcani, sulla costa del Mar Nero, e lì si ritiravano quasi tutte le specie. Quando il ghiacciaio e tutto il ghiaccio si è sciolto, tipo 10.000 anni fa, tutti rimigravano per ritrovare il loro terreno liberato dal ghiaccio. E ad oggi è invertito, perché ad oggi, nella epoca calda, le montagne sono diventate il rifugio. Quindi se scalda troppo, tutte le specie tendono a salire per ritrovare la loro nicchia. Ecco. E poi anche la nostra specie è sensibile, no? Chi va in montagna lo sa. Ci sono pochi giorni, ce la facciamo senza acqua, pochi minuti senza ossigeno. Quindi per forza ci dobbiamo adattare e garantire per noi la nostra nicchia, o con soluzioni tecniche, climatizzazioni, so, andare, se è meno grave si va nel bosco, si va nell'acqua, eccetera. Però a un certo punto forse non basta più. E lì sicuramente un pochino ci salviamo salendo di quota. E posso veramente capire tutti questi movimenti che faccio anche io stesso, che a me piace salire e trovare il clima più fresco, penso a ognuno di noi. Ecco, e così anche le piante tendono a salire. Per esempio il limite del bosco si alza con un cambiamento di 2 gradi, tipo 300 metri va in su, perché in atmosfera standard ogni 100 metri la temperatura salendo in montagna diminuisce di 0,55 gradi. Quindi troviamo un bel gradiente di temperatura. Voglio enfatizzarvi anche che la montagna portano veramente una grande ricchezza. Perché? Perché hanno tutte queste nicchie diverse. Hanno il lato nord, il lato sud, hanno la parete ripida e la pianura, il fondovalle. Hanno diverse quote di elevazione e quindi tantissime specie trovano tutte queste nicchie, e in questa eterogeneità del paesaggio, importantissimo, lì riescono a sopravvivere. Se fosse tutto omogeneo, piatto, tutto lo stesso, avremmo poche possibilità tutti quanti. Invece la montagna offre questa ricchezza che è anche una sicurezza, vorrei dire. Grazie. Io chiederei invece a Ludwig Hafner, se ha voglia, di spiegarci anche quali sono, come dire, le varie soluzioni proposte anche nell'ambiente alpino, come ci si è mossi negli ultimi anni rispetto al cambiamento climatico, rispetto anche appunto a noi viviamo, ci arriveremo dopo, è una provincia molto particolare, come ha già detto Andrea Membretti, in cui il controllo del territorio, la possibilità normativa ed economica rispetto ad altre regioni italiane è incomparabile. Però appunto se ne parla tantissimo, di convegni ce ne sono uno alla settimana, però la situazione non sembra essere molto cambiata negli ultimi 10 anni, diciamo. Beh, io faccio un po' fatica a relazionarmi solo all'Alto Adige, perché la settimana prossima parto per l'Etiopia ed è lì che ho iniziato a capire cosa significa cambiamento climatico, perché per 2 anni non è piovuto nel 16-17 ed eravamo lì e ci siamo chiesti, mi sono chiesta all'epoca di cosa ha bisogno un'emergenza di questo tipo, cosa sono i 2 elementi fondamentali per affrontare un'emergenza o un cambiamento così drastico. E mi è stato detto che sono per primo il grado di preparazione e il grado di coscienza di quello che sta per cambiare radicalmente, e questo è il lavoro che stiamo facendo anche stasera, di cercare di dare questa consapevolezza. E il secondo elemento fondamentale è il livello di relazione sul territorio. L'unico modo di affrontare bene un'emergenza è di potersi, di avere un relational field, cioè un proprio una struttura relazionale sul territorio. E da allora io mi sono iniziata ad impegnare con l'Istituto a Potsdam di sostenibilità trasformativa, su come possiamo uscire da una logica di utilità e di convenienza per entrare in una logica di cura collettiva e di interbeing, cioè perché non ci sarà un posto che ci salva, e se ci fosse sarà un posto atroce perché tutti vorranno andare lì. E quando ho vissuto questa esperienza, non l'ho vissuta io, ma quando ho iniziato a capire che in Kenya, in Etiopia, ci sono dei territori inabitabili, cioè tutta una popolazione si deve muovere, e poi sono tornata in Italia, ho visto che stiamo affrontando questi movimenti che in maggior parte si spostano di poco, perché tutti vogliono, cioè questa speranza di poter tornare a casa, cioè è l'ultima a morire. Eppure se si condensa nel modo che suppongo si condenserà anche da noi, come possiamo creare delle relazioni sufficienti perché diventi un affrontare l'emergenza insieme? E io al momento sto facendo c'è una piattaforma che si chiama Sutra, che lavora sulla combinazione di dare informazioni e di creare relazioni al contempo tra chi partecipa a questo corso. E il corso che uno dei corsi che sto facendo attualmente è di Charles Eisenstein e si chiama Unlearning for Changemakers. E ci sono 600 persone che stanno lavorando in questa sfoglia che cercano di capire da quale logiche mentali dobbiamo uscire, e al contempo il corso stesso crea delle relazioni e usa l'intelligenza artificiale per cogliere l'essenza delle risposte, perché se ricevi un piccolo video, poi se ti chiedono di dare una tua percezione di cosa significa per la tua vita, di come tu ti relazioni a questi cambiamenti, ed è lì che credo si giocherà non è una partita, è più di una partita. E ho appena letto sul retro di uno di questi libri la frase: la risposta alla paura non è la speranza o l'ottimismo, è il coraggio. Ed è proprio questo coraggio di uscire da una logica di ricezione e vantaggio proprio a una logica di non violenza. E noi l'anno prossimo proporremo un corso di non violenza per iniziare a capire come funziona una logica diversa. Non so se questo risponde. Sì. No, perché questa prima non dicevo, ma la percezione che abbiamo raccolto, anche queste opinioni, eccetera, sulla montagna, dal che il sottotitolo La montagna ci salverà, davvero c'è un approccio spesso molto strumentale. E da lì anche vengono fuori poi i conflitti, allora potenziali o effettivi, con chi già vive un territorio. Cioè c'è l'idea che io, in maniera strumentale, per salvarmi da una certa situazione negativa, in questo caso appunto il cambiamento climatico e i suoi effetti, mi sposto altrove e sfrutto e utilizzo un altro territorio, no? Però naturalmente, adesso poi Camilla può dirlo meglio dal punto di vista delle scienze naturali, ma sicuramente se una popolazione si muove verso un altro territorio, un gruppo di esseri viventi, naturalmente se il territorio non è disabitato innanzitutto si creano delle dinamiche. E l'altra questione è che c'è scarsa consapevolezza, tornando al tema anche, no, dell'Emilia Romagna eccetera, di come il territorio, come diciamo nel retro di questo libro, La montagna non ci salverà, così lo leggo da lì, a meno che prima non si salvi la montagna, no? Qui abbiamo fatto un po', ovviamente è un'espressione un po' retorica se vogliamo, però se non c'è la cura condivisa, in questo caso della risorsa rappresentata dalla montagna, allora abbiamo solamente alcuni che cercheranno, magari anche tanti, spingendo, di entrare da qualche parte dove poi alla fine il posto così non c'è per tutti. Quindi un ragionamento di collaborazione, un ragionamento di condivisione mi sembra veramente importante. Ecco, quindi scusate, solo perché volevo prendere questo input che dava Judith. Sì, io credo che da questo punto di vista ovviamente l'informazione svolga un ruolo fondamentale. Faccio una brevissima ricordo personale, diciamo. Nell'ultima alluvione nel Bolognese è morto un ragazzo che stava transitando in auto vicino a una frazione che si chiama Botteghino di Zocca, che è a 12 minuti da San Lazzaro, dalla periferia bolognese. È un posto con villette a schiera fatte appunto da quelli che volevano stare lontani dal caos, ma essere in 10 minuti a Bologna e quindi usufruire di tutti i servizi della città. Ha subito tre alluvioni in un anno e mezzo, quindi quasi tutti gli abitanti, sono 500, hanno dovuto buttare via tutto tutte le volte, l'ultima è stata anche la peggiore. Io conosco persone che ci abitano, adesso quando piove sono letteralmente terrorizzati, perché sono vicino a un fiume che se non piove non esiste, cioè non c'è, e quando piove fa danni enormi. A questo punto queste persone tutte vorrebbero andarsene da lì, ma chi compra casa in un ambiente come quello? E quindi incredibilmente, voglio dire, questi cambiamenti climatici poi ti mettono in una condizione di cambiamento totale rispetto alle prospettive della tua vita, e credo che sia quello fondamentalmente che la gente dimentichi troppo facilmente, perché all'improvviso a Valencia credo che nessuno, comunque al di là delle responsabilità degli amministratori, si aspettasse una situazione di quel genere. Però mi ha dato il racconto dell'Etiopia, mi ha fatto venire in mente che, se non sbaglio, ieri il New York Times ha pubblicato un articolo invece raccontando le problematiche di chi vive nelle zone artiche, che quindi ha gli stessi problemi, non rispetto alla mancanza d'acqua, ma l'eccesso in quel momento di acqua. E quindi forse puoi anche tu, Andrea, incominciare, se vuoi, a presentare già il filmato che poi vedremo dopo. Sì, grazie. The Ice Builders nasce proprio con un'idea che è condivisa nel libro. Io sono stato parla di questi ghiacciai che abbiamo costruito artificialmente sull'Himalaya indiano, e racchiude un po' l'ambiente montano ma anche quello desertico. È un deserto ad alta quota che si sviluppa tra i 4.000 e i 7.000 metri d'altezza, E io quando sono stato, venendo da un ambiente alpino, sono rimasto allucinato, per non dire altro, e mi sono posto nella mia testa la domanda: la montagna ci salverà? E se sì, noi dobbiamo salvare la montagna, ovviamente. E quindi da lì nasce questa cosa. Quello che noi non vediamo di cambiamento sull'Himalaya è ultra accentuato, ultra evidenziato. E anche lì questa migrazione che avviene per chi vive in montagna in queste zone ultra isolate va contenuta per permettere al territorio di continuare a vivere e vivere, anche essere salvaguardato. E deve essere salvaguardato anche dalle migrazioni che invece vengono dalle città e lentamente si stanno avvicinando e stanno portando poca informazione, nel senso che chi è abituato a vivere in città, come dicevate giustamente voi, cerca un ambiente più mite e più adatto, senza voler rinunciare a tutte quelle comodità senza allontanarsi troppo da quelle comodità che la montagna ovviamente non ha. Questa cosa in Himalaya è veramente, ma lo vedrete poi nel documentario, è evidenziata al massimo, ed è anche, essendo la maggior parte dell'acqua che serve alla terra contenuta nei ghiacciai himalayani, è anche forse la cosa, il punto dove bisogna intervenire con più urgenza, anche perché quello che noi vediamo, se noi la temperatura cambia di un grado o un grado e mezzo da un anno all'altro, lì cambia di 3 o 4 gradi, quindi è tutto esagerato. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda l'Himalaya indiano, è un posto difficilissimo perché siamo all'interno dell'India e l'India a livello climatico, proprio culturalmente, è lo zero più totale. Loro non hanno visione di quello che c'è fuori dalla città, se sono della città, o che c'è in altre zone magari più rurali. Quindi tutti quelli che vanno anche, cioè, dopo il Covid c'è stato un boom di turismo indiano in questa zona e la cosa più difficile è stata salvaguardare l'ambiente montano, oltre che, vabbè, la cultura del posto e la cultura della gente che lo abita, però proprio insegnare anche al turista, non solo chi si trasferisce, anche al turista che andava in questa in questa zona è molto molto complicato ed è però fondamentale per mantenere questo equilibrio. Sì, nel frattempo tra l'altro città come Delhi sono delle vere e proprie camere a gas, leggevo proprio il mese scorso di una situazione. È una pianura padana all'ennesima potenza. Esatto. Io farei a questo punto un giro più specifico possibile, però sull'Alto Adige, se possibile. Riparto da te, Andrea, se vuoi. Obiettivamente, soprattutto per chi viene da chi non è nato qua, chi non è cresciuto in Alto Adige, è impressionante notare quale controllo del territorio ci sia da queste parti. C'è un'immagine che io evoco spesso: se voi rivedete i fiumi dell'Emilia Romagna ai tempi, insomma, nelle varie ondate di alluvioni, vedrete questi ponti ferroviari ad arco che bloccano tutta molti alberi, legna che viene giù dalle montagne. Quei ponti lì in Alto Adige non ci sono più, sono stati tutti sostituiti con ponti che non hanno le colonne centrali, non sono un tecnico, però insomma non sono con questi archi, per cui non bloccano il flusso d'acqua, quindi evitano alluvioni molto più gravi. Basta farsi un giro in montagna per vedere quale attenzione ci sia ai canali sugli altipiani, in montagna. C'è un controllo straordinario del territorio, di cui personalmente sono molto felice. Va detto però, e tu nell'intervista che ti ho fatto, che è uscita su FF, mi raccontavi del fatto però che qui ci sono risorse economiche e capacità normativa assolutamente uniche in Italia, quindi ti chiedevo di spiegare quanto questo aspetto sia importante. Sì, Certo, ovviamente non devo dirlo io che non sono di questo territorio, anche se ci ho lavorato qualche anno, lo conosco abbastanza. Però è evidente che rappresenti una, se vogliamo, una buona pratica, se vogliamo chiamarla così, no? Sicuramente nell'arco alpino, per non parlare dell'Appennino, non abbiamo, tu facevi l'esempio dei ponti, giustamente, ma in generale la manutenzione delle infrastrutture in montagna, la manutenzione del territorio non è minimamente paragonabile. Però da un lato c'è un tema di risorse economiche, e qui cioè, insomma, se le risorse ci sono si fanno delle cose, se non ci sono non si fanno. Allora dovrebbe essere un ragionamento in queste settimane c'è in discussione, come credo sappiate, nel Parlamento nazionale, no? Una proposta ormai avanzata di legge sulla montagna. L'Italia non ha una legge sulla montagna, poi appunto province, regioni, realtà autonome o meno si sono dotate di alcuni strumenti, però l'Italia, diversamente dalla Francia che ce l'ha da decenni, non ha una legge sulla montagna. Se hai una legge sulla montagna, si auspica anche che questa si accompagni a degli stanziamenti di fondi in territori che, diversamente dall'Alto Adige, non hanno quelle risorse autonome da investire. Quindi qui innanzitutto c'è un primo tema di diciamo anche appunto mancanza, assenza o limitata presenza di risorse economiche. Però c'è anche proprio il tema dell'abitare, perché al di là del fatto di avere o no le risorse economiche, un territorio come l'Alto Adige è unico sostanzialmente nell'arco alpino italiano, perlomeno per quello che riguarda la presenza antropica diffusa. Anche qua c'è, io mi ricordo, ho seguito in anni passati un dibattito sul fatto che si abbandonino i masi più alti, ci sia comunque una situazione di tendenziale scivolamento a valle, ma in un territorio che dal punto di vista Istat è classificato integralmente come montano e dove comunque questi movimenti di quota, perché anche qua ci sono degli scivolamenti a valle, non sono paragonabili assolutamente a quello che succede in tutte le altre regioni alpine, perlomeno in quelle italiane. E questo certo è sempre, ha sempre a che vedere con le risorse economiche, perché poter vivere un territorio in maniera diffusa è legato a le risorse economiche investite sul territorio, i servizi che puoi avere su questo territorio, il fatto che un territorio investa molti soldi per mantenere le persone nei contesti montani e rurali. Allora, questo ovviamente lo sappiamo, fa parte anche di una politica di questo territorio da 50 anni a questa parte, quindi è evidente. Però ecco, volevo insistere sul tema dell'abitare, perché la montagna abitata, poi appunto Camilla vuole dire qualcosa in merito, è anche una montagna dove più è abitata più vengono fuori possibili conflitti, invasioni di campo, diciamo anche, no? Tra diverse specie viventi e tutta la diatriba, insomma, che abbiamo soprattutto in Trentino. Però è una montagna dove la popolazione diffusa contribuisce in maniera sostanziale a mantenere il territorio. E noi invece abbiamo una montagna appenninica o alpina per la gran parte nel centro, nord-ovest delle Alpi, ma anche nel nord-est, perché basta andare nel confinante Friuli Venezia Giulia per vedere la situazione che c'è, pur essendo una regione autonoma a statuto speciale, eccetera, eccetera. Quindi la montagna friulana è abbondantemente disabitata, in gran parte si è svuotata. Ecco, questo non rappresenta, non dà la possibilità di una resilienza, di una reazione ai mutamenti in atto. Ecco, quindi direi che il combinato tra risorse economiche e demografia, dove però la demografia in buona sostanza comunque è sostenuta dalle risorse economiche, perché se non ci sono risorse economiche le persone non rimangono sui territori, e quindi che siano i servizi, che sia il lavoro, che sia quell'attenzione appunto al territorio che ti viene dal fatto di avere le risorse in questione. Sì, a questo proposito faccio solo un breve accenno. Io ho intervistato di recente il sindaco di Predoi, di Prettau, in Valle Aurina, è il comune più a nord d'Italia, e lui, rispetto all'overtourism, diceva Ma noi senza turismo non avremmo, già facevamo fatica ad avere il bar, ad avere un supermercato senza avere i turisti. E il problema che abbiamo, però, abbiamo comunque un problema di overtourism, perché c'è una chiesetta a Casere, poco dopo l'abitato di Predoi, in cui, come in molte chiesette dell'Alto Adige, arrivano i turisti, fanno la foto e poi vanno via, però creando enormi problemi di traffico e di parcheggio. Questo rispetto all'overtourism, dice, per noi non è una questione di essere solo contro o a favore, è da gestire una situazione particolarmente complicata, perché vorremmo, la cosa che a me ha fatto più effetto nelle sue risposte era che diceva avevamo una quarantina di zimmer, delle camere in affitto, adesso ne hanno 3 nell'intero paese. E dice, questo adesso viene sostituito, ed è quello che mette a rischio, a mio avviso, molto dell'Alto Adige e del Südtirol, vanno molto di più i grandi alberghi col wellness. Questo è un cambiamento totale dell'approccio turistico, perché chi va nelle camere private poi rilascia sul territorio a dove va a fare la spesa o piuttosto che al bar dei soldi, mentre chi entra in un albergo wellness solitamente li lascia dentro l'albergo, e bisognerebbe capire chi è il proprietario dell'albergo per vedere poi se sono soldi che restano sul territorio o se vanno fuori. Questo era solo un breve inciso per anche chiarire appunto quanto la questione sia complessa da ogni punto di vista. È troppo facile farsela con i turisti. Io ho appena attraversato il mercatino, ovviamente li odio perché non riesco a passare per andare a fare la spesa, però ammetto che trattarli da predatori, visto quanto vengono poi obiettivamente rapinati ogni volta che vengono da queste parti, non mi sembra assolutamente eccessivo. Però chiedevo a Camilla se vuole, come dire, prendere il lancio che le ha fatto Andrea rispetto a questioni legate anche alla fauna e alla flora dell'Alto Adige. Sì. Sì, importante anche questo, certo, lo dobbiamo affrontare, e questo è un territorio molto interessante, molto ricercato, e diciamo la montagna con gli aspetti culturali anche, che offre un frutto dell'agricoltura tradizionale di montagna, che ha lavorato in modo più sostenibile, no? Perché la gente doveva sopravvivere e ha gestito l'ambiente in modo che poteva anche un domani e con le prossime generazioni sopravvivere ancora. Invece se invadiamo e sfruttiamo, non siamo più in quel concetto. E lì ovviamente ogni cosa ha un limite, c'è una soglia, e anche per il turismo e per l'afflusso della massa c'è una soglia, ovviamente. E quindi sì, sarebbe ancora da pianificare meglio quante possono andare dove, farlo in un modo un po' più strategico, e certo non sarà giusto che pochi guadagnano e gli altri e l'ambiente ha il danno. Quindi lì, non so, bisogna puntare forse più sull'educazione, sulla sensibilizzazione, a far capire a tutti, anche a chi viene a far wellness, che impatto ha e che cos'è il valore della montagna. Io punterei su questo. Io volevo invece chiedere a Judith un parere anche rispetto, siccome prima si parlava di relazioni, no? Anche di approccio al futuro, sono due cose che mi hanno particolarmente colpito delle ultime anche campagne elettorali, diciamo, che è il grande scontro città-provincia o città-campagna, per cui i risultati elettorali delle grandi città sono molto molto diversi dal resto del... E leggevo Tim Marshall poco tempo fa in un libro sulle 10 mappe più importanti che spiegano il mondo, un titolo simile, poi magari lo ritrovo, in cui diceva la Cina non può permettersi la democrazia perché esploderebbe la guerra tra le città e la campagna, che mi sembra un aspetto anche interessante. E comunque appunto anche quello che io vedo soprattutto nelle giovani generazioni è che tra pandemie, guerre e crisi climatica ci sia una rassegnazione totale, cioè quel coraggio di cui parlavi prima è difficile scorgerlo, ecco. Beh, io mi sto attivando per una rete che ancora non esiste o non è visibile, di 100.000 donne in paesi diversissimi sulla pace, e che è stata iniziata da Miki Kashtan e Aida Al-Shibli, una palestinese e una israeli, con questa intenzione di andare oltre queste logiche che ci separano. E io riesco ad affrontare una situazione di crisi condensata solo se, cioè, se tu vieni dalla città verso la mia montagna, io rimango in questa percezione che tu mi you are a threat, cioè che mi togli qualcosa, non riusciamo ad uscire da, che siano i turisti o che sia qualche, è solo se riesco a percepirti come persona umana come me e se i tuoi bisogni diventano, entrano nella mia percezione emozionale di bisogno. E questa secondo me è una delle chiavi centrali sulla quale si troveremo soluzioni, perché se non in tutti questi contesti di guerra, e io la formazione che ricevo è su Palestina e Israele, cioè vedere due donne che si affrontano in questa intenzione di capire l'altra parte, ma non, e anche se non c'è una soluzione, perché anche la capacità di rimanere in una situazione che sembra senza soluzione. E i due anni che ho vissuto lì in Etiopia, dove prima arrivavamo con i soldi e con questa sensazione di poter fare qualcosa, e siamo arrivati a quel punto dove non c'era possibilità di fare. Ed è lì che è nata una qualità, una nuova qualità di relazione con i nostri partner. Ed è la disponibilità di dire, intanto io non investo più, cioè ho letto l'articolo venendo di qua degli investimenti a Dobbiaco per le Olimpiadi, tu arrivando mi hai detto che stanno investendo in un nuovo coso sciistico anche se non c'è più la neve, cioè torna questa logica mentale di per cosa investiamo. E quando c'è stato questa evaluazione dell'Alto Adige sulla sostenibilità due anni fa, io mi ricordo, non mi ricordo il nome, ma una responsabile in provincia che dicevo non c'è verso di spiegare il rischio di frane in Alto Adige pur avendo tutti i dati, ma non perché non abbiamo i dati, è perché c'è questo blocco mentale di dire non lo voglio neanche sapere e non ci credo. E non so come ci arriviamo, ma so che ci arriviamo su questo fronte. Almeno questa è la mia opinione. Sì, su questo chi lavora nelle redazioni dei giornali si accorge che certi temi proprio non vengono assolutamente considerati. Sì. Un'ultima cosa, una cosa che mi sta veramente impressionando in quel lavoro di pace, che sono veramente contesti difficilissimi, di quanto l'elemento di celebrate, cioè di celebrazione di movimento, di vitalità, è quella che ci guida. Cioè, la mia collega è appena tornata dal Chad e ha lavorato con donne dal Sudan e ha detto che hanno vissuto atrocità e si sono ritrovate le forze e il coraggio attraverso questa forza vitale che connette la mente al resto del corpo. Sì, probabilmente da queste parti siamo più rassegnati, ecco, forse meno ottimisti. Non so se abbiamo sì, due minuti, Andrea, se vuoi dare una chiusa, diciamo, e poi facciamo presentare. Sì, volentieri, prima di presentare il corto, che è appunto molto in relazione con quello che stiamo dicendo, quindi Andrea poi dirà. Ma io penso che anche questi ultimi interventi nuovamente ci mettono intanto di fronte alla necessità di una governance, di una forma di raccordo. Allora io ti dicevo più ovviamente a livello magari di movimenti culturali, di solidarietà, io penso anche a livello politico, perché c'è una frammentazione, una distinzione, una divisione, in questo caso anche tra chi vive i territori rurali e montani, chi vive i territori urbani. Troviamo una situazione speculare, perché i cittadini che noi abbiamo intervistato, le persone che sono state coinvolte in questa ricerca, come dicevo prima, hanno una visione spesso veramente molto strumentale della montagna. Torno a dire, la maggior parte dei milanesi che abbiamo visto che hanno cambiato residenza e sono venuti in Alto Adige, Trentino o in Valle d'Aosta, perché erano i luoghi del turismo, di un turismo, non dico né di rapina né di rapinati, ma sicuramente non un rapporto, diciamo, continuativo e di collaborazione con il territorio. Ma dall'altro lato, se dalla parte della città c'è questo approccio meramente strumentale, quindi ci salviamo in montagna, proviamo a salvarci in montagna, dall'altro lato mi sembra che in territori in particolar modo che hanno particolari risorse come questo, c'è anche la tendenza o il rischio di una chiusura autoreferenziale, che la vedi sia dentro il territorio, tra la campagna, diciamo la montagna e le città, ma soprattutto tra una porzione di territorio come può essere l'Alto Adige e territori circostanti, perché chiaramente quando il cambiamento climatico ci sfida, quando le situazioni di cui stiamo parlando rendono in qualche modo addirittura difficile comunque, no, il portare avanti la stessa sopravvivenza della specie, ecco che allora forse tema diceva che si diceva sia dal punto di vista ecosistemico sia dal punto di vista dei valori è quello invece della collaborazione, della negoziazione, no? Allora chiudo dicendo appunto che noi l'analisi che abbiamo fatto, che è un'analisi di dati scientifici, che è un'analisi di dati di percezioni, ci rimanda però in ultima istanza alla necessità delle politiche. Poi continuiamo a dircelo ogni volta e facciamo dibattiti, cose, ma politiche in questo caso noi le chiamiamo politiche metromontane, cioè politiche che tengano assieme, cerchino di mettere in relazione le esigenze delle grandi città, gli input che arrivano dal cambiamento climatico con le risorse che ci sono in montagna. Pensiamo tutto al tema dei servizi ecosistemici, no? Pensiamo appunto al tema dell'acqua che adesso viene introdotto in questo filmato, al tema della qualità dell'aria, delle foreste, ecco, però la relazione tra le risorse e le popolazioni differenti, altrimenti in assenza di quest'opera anche di mediazione, di negoziazione, c'è il fenomeno da una parte della chiusura autoreferenziale, come dicevo, del mantenere delle risorse dentro un proprio contesto. Siamo fortunati più o meno, ci teniamo la fortuna o la sfortuna che abbiamo, e dall'altro c'è un tema banalmente molto economico, perché nel caso degli esseri umani, diversamente da altre specie viventi, l'avere o no determinate risorse economiche in possesso e di partenza ci consente per esempio di arrivare o no alla montagna. Nel volume c'è un caso che io trovo molto interessante, che abbiamo analizzato, di Crans Montana nel Vallese, in Svizzera, di un resort sciistico che sta diventando una località per la vita quattro stagioni, di persone che cominciano a vivere lì utilizzando le seconde case o comprando delle case per vivere tutto l'anno a 1500-1800 metri, no, sull'Haut Plateau, in una situazione climatica ottimale. Ma chi sono queste persone? Arrivano anche dagli Emirati Arabi Uniti, comincia a esserci una migrazione internazionale come l'overtourism in Alto Adige, che non è più un overtourism essenzialmente di milanesi, di torinesi o di bolognesi, ma vengono da molto lontano, no? Appunto dalla Cina, dai paesi arabi. Così c'è l'acquisto di case, per esempio in un caso come Crans Montana, l'acquisto di immobili per un investimento e per guadagnarsi una piccola porzione di spazio sicuro, di fatto però non interessandosi degli altri o addirittura a danno degli altri. Questo mi sembra che sia un po' il messaggio, almeno, che vorrei che ci portassimo a casa da una riflessione come questa, da una ricerca come questa. Grazie. Sì, scusa, quindi la montagna ci salverà, mi sembra di capire. La montagna da sola non salva nessuno, piuttosto dobbiamo noi cercare di salvare la montagna. Ecco, allora, ringrazio Camilla, ringrazio Judith, ringrazio i due Andrea, ti lascio presentare il film e credo che intanto noi ci spostiamo, immagino. Esatto. Adesso vediamo il corto. Brevemente, il documentario racconta di un progetto che ho ideato e realizzato con un'associazione di Trento, che si chiama Trentino for Tibet, proprio per aiutare questa popolazione in questa valle dell'Himalaya indiano a conservare l'acqua nel periodo invernale per poterla utilizzare e essere autosufficienti nei periodi primaverili e estivi. E nasce appunto dall'idea, dal successivo mio viaggio in questa zona, è una valle grande più o meno come il Trentino Alto Adige, e ci vivono circa 20.000 abitanti, quindi pochissimi per l'estensione del luogo. Da Delhi ci si mette 6 giorni in auto per arrivare, e la prima cittadina con servizi, visto che parlavamo della voler vivere in montagna con i servizi vicini, è a 2 giorni di auto. Quindi loro vivono tutto l'anno, l'inverno è completamente isolato, quindi non è raggiungibile da ottobre ad aprile questa valle, e lì veramente, quando sono stato lì, ho visto il coraggio che ha questa gente di voler continuare a vivere lì, di voler conservare la propria montagna, la propria tradizione, e appunto anche di accettare chi viene dall'esterno per raccogliere preziosi consigli che io magari non potevo dare, ma ho fatto il viaggio con questo ingegnere del posto che mi ha illustrato questa tecnica di creazione dei ghiacciai artificiali, e lui, il suo scopo appunto è insegnare alle popolazioni locali come vivere la montagna in modo che la montagna possa convivere in maniera ideale con loro e quindi li possa effettivamente salvare. Loro hanno, per loro il cambiamento climatico è molto più difficile da vedere rispetto a noi. Noi abbiamo tantissime informazioni dall'esterno, loro non hanno nemmeno internet, o non avevano nemmeno internet, per fortuna da un anno e mezzo è arrivato anche lì. Non hanno televisioni, non hanno quotidiani locali, hanno pochissima informazione, e quei pochi che vanno fuori per studiare cercano di tornare proprio per portare informazioni il più possibile. Quindi per loro, quando noi siamo andati a cercare di aiutarli, sembrava una cosa molto molto strana, molto particolare, perché dicevano: no, noi sopravviviamo tranquillamente. Quando hanno iniziato a capire quello che volevamo fare, che non si riduce a quello che si vede nel corto, che è appunto questa costruzione di questo ghiacciaio artificiale, ma anche costruire delle serre che gli permettessero di essere autosufficienti tutto l'anno e coltivare tutto l'anno anche quando fuori sono meno 30, costruire dei canali che gli permettessero di raccogliere l'acqua oltre che congelarla, loro hanno capito che effettivamente ne avevano bisogno. La loro vita è cambiata in positivo, la loro qualità di vita, e quindi hanno accolto anche questo nostro desiderio di insegnamento, e l'hanno a loro volta insegnato alle generazioni, a nuove generazioni, anche banalmente ai turisti che vanno lì. Loro devono avere turismo, altrimenti non potrebbero vivere nei 3 mesi che gli rimangono estivi. Però deve essere, è loro compito anche insegnare al turista a rispettare quell'ambiente, a rispettare quel luogo, così che possa rispettare anche la città quando ritorna. Si vedrà un passaggio che non spoilerò, però dove appunto anche quello che succede nella città ha una valenza e un'importanza enorme per l'ambito montano. Questo ingegnere, quando è venuto, è una cosa che mi ha colpito tantissimo, quando è venuto da noi in Italia, siamo stati sulle Dolomiti, e gli dicevo: questa è sono i territori alpini dove noi viviamo, insomma. Ma voi non state vivendo in montagna? Non c'è nessuna casa in montagna? Ed effettivamente il nostro, cioè anche per noi che viviamo in montagna, io vivo vicino a Trento, c'è la baita dove andiamo a rifugiarci, un po' come fa quello, il cittadino, diciamo, che cerca di scappare anche solo qualche giorno o in determinati periodi dell'anno. Lui giustamente mi ha detto: se tu vivi in cima alla montagna, riesci a conoscere la montagna, perché vedi ogni minimo cambiamento, perché a valle ci devi tornare per forza, Però ritorni in cima alla montagna e vedi ogni minimo cambiamento e puoi intervenire e quindi prolungare anche la vita della montagna. Se tu vivi anche solo a metà, quello che succede sopra non te ne accorgerai mai finché non è troppo tardi. E è un aspetto che noi occidentali facciamo fatica a vedere, a conoscere, perché non siamo abituati. E per assurdo noi dovevamo cercare di insegnargli come convivere con la montagna e invece è stato un insegnamento che lui ha dato a noi e è molto centrato. Adesso vediamo il corto, è breve però. Buona visione. Unlike in other countries, in Ladakh, the place you're born in has very special connection. We cannot think of moving away. You don't sell your father, your grandmother, so you don't sell your house. We are at the forefront of climate change. First victims. Very soon you all will be victims also. In a region like Nansgarh, all the villages entirely depend on their traditional glaciers or small snowfields. You would always see all these villages below this glacier that has been serving them and been able to cultivate their lands, support a pastoral community, support the cattle for fodder and food. The whole livelihood existence depended on these traditional glaciers. So what has happened is we couldn't depend on these glaciers anymore in the past 15 years, mainly because snow pattern has been very erratic. So it will snow quite a lot 1 year and then won't snow for another 3-4 years. You can go to any old person and ask them, okay, what changes have you seen? They would just point right here, like 100 or 200 meters away, and you would say, the glacier in the peak of the summer used to reach till the foot of this mountain, and it disappeared in the past 2 decades or 3 decades in their lifetime. Thank you. punto tarati na. Rom kumari wena ya. Jo mbira tsukseno ba. Pabli ta tungun he se kimaji ya mule mate tu ba. Tu ko kawal tango shoko ya. Biale. Ta odi mizul kyo jin ba. Ta orle ta ya. Non puoi dire che c'è solo. Usilo niente, naturalmente. Ma dove c'è da io? Inizio, passi. Ramolino che ci dice. C'è sopra che c'è un po' di oggi, c'è un po' di sonno. Guardami, ramolino che c'è. Ma come ho fatto io? Io ho fatto un po' di tempo. I remember growing up listening to stories from elders about how they used to make artificial glaciers hundreds of years ago. And I never understood, still don't understand, how they actually made it. It was more like a fairy tale. Much later, one very senior Ladakhi engineer was doing something to freeze water during the winter when people don't need the water so that it can be used in spring and summer, more scientifically than fairy tales. The only problem he was facing was that this would melt too early before the people need it. So he would have to make it very high up in the mountains. When he shared these problems with me, I started working on freezing ice so that it does not prematurely melt. So to shade it was the answer, to shade it from the strong sun. But you can't shade with materials, it won't be practical. So that's when we started using geometry. So we wanted to freeze it like a cone of ice, which would have low surface and high volume. So that's how ice stupas were born. Ice stupa is something we wanted to experiment in 2019 when we were making it. We were there 4 months straight, and we would go there every morning and come back around 9 or 10 p.m. when it was minus 30. And then sometimes we had to empty 500 meters of pipe because it would freeze. So you have to take out the joints and you have to beat and every inch of the pipe so you get every inch of ice outside the pipes. That would take about 6-7 days and empty it and then join again and then try it again, you know. So the idea is to keep the water that is available in winter and nobody uses it because there is no farming till spring and summer when everybody wants water. Now the only way to keep it is frozen, but we don't have pumps or the fuel to run pumps, so we said we'll use gravity. You need not worry about what you don't have, like money and machines and fuel. In the mountains we don't have many things, but slopes and therefore gravity can be a resource. So there is pressure, just like a pump, but without a pump. Then you put on that a fountain that makes the water spray into the air. Now it's minus 20 air in winter. Liquid water becomes solid. So it makes a cone of ice, white and conical, just like our old stupas. And stupas are very close to people's hearts because they are like monuments of spirituality. So we'll call it ice stupas. Stupas are Buddhist symbolic structures. They are conical in shape. In a typical Tibetan stupa, you'll have the base, the center, and then on top you will have another conical structure with moon cradling the sun, which signifies the interdependence of everything else, day and night, cold and hot. Their existence is dependent on the other. That's how the universe functions. It's like Buddha saying, desires give you suffering. So the answer is not in fulfilling your desires with materials. The answer is in reducing your desire. Ice stupas are not something to be proud of. This is more like a symbol of our situation. A message to the world of what we are driven to. So when I look at the Himalayas, I look at it as a source of life and a very vital asset of the world. And that's why it cannot be looked at as a regional issue, a national issue alone, but it should be looked at as an asset of the world. The solution, I always say, lies with the people in the big cities. Please live simply so that we in the mountains may simply live. At the end of the day, we are not saving anything else, but we are saving ourselves, nothing else. The earth will be doing just fine after we have left, you know. Are we able to address a problem that is global, that is universal, and the root of the problem is ourselves, acknowledging that and coming together to solve that? And today the question is, where has this human evolution come to?